Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat. Traduzione di Anna Nadotti e Giovanna Iorio Bates. Panadiomene. Andarono a Filey perché Daniel ci passava le vacanze da bambino. Proponendo quel posto, le spiegò che di solito non tornava nei luoghi del suo passato, ma d'altra parte di solito non aveva una vita privata, perciò in questo caso pensava di poterlo fare. Ci misero parecchio tempo per arrivare. Gran parte del viaggio fu sufficientemente disturbata dal frastuono del motore e dallo sferragliare delle ruote perché non ci fosse bisogno di parlare. Daniel indossava il maglione da marinaio e un grosso, informe Montgomery nero con cappuccio e alamari che aveva comprato in un magazzino di eccedenze dell'esercito. Furono quasi gli unici a scendere alla stazione, inondata di sole e spaventosamente fredda. Stephanie, che aveva delle scarpe comode, ma non aveva né guanti né cappello, rabbrividì. Daniel se ne accorse. «Sì, il vento soffierà forte», disse soddisfatto. «E il mare sarà agitatissimo, spero. Le serve un cappello, gliene compro uno». Stephanie protestò. «No, lasci che le faccia un regalo, mi farebbe piacere. Vorrei che fosse ben coperta prima di incamminarci, così non avrò l'ansia di riportarla indietro». Raggiunsero la città e trovarono un tetro negozio di tessuti vittoriano. All'interno, una donna beige, in un vestito di maglia beige, con pettorina all'uncinetto, aprì per loro scatole bianche, lustre e screpolate, di guanti di lana, pelle e stoffa. Stephanie, che voleva qualcosa di economico e caldo, scelse delle muffole di un colore blu pallido. Daniel insistette per comprare il berretto coordinato, che aveva un grosso pompon giallino. Lei se lo calcò docilmente sulla fronte e le orecchie. L'onda voluminosa dei capelli biondi si arrotolò sulla nuca e brillò sopra il collo del cappotto. «Com'è dolce!» pensò Daniel travolto dall'emozione e fece una scoperta. Ezechiele aveva mangiato i rotoli delle scritture e li aveva definiti dolci. «Lei è lo stesso!» pensò ferocemente Daniel, con quel viso rotondo e pulito sotto il cappello di lana infantile, i capelli fulgidi, il docile sguardo esitante. Giunsero a Caregate Hill, lembo di terra ripio del sconnesso, dotato di corrimano, gibbosità estrema, erta e intransigente. Di fronte c'era il mare, grigio, greve e scuro, laghi angusti che rilucevano là dove il balenio del sole bucava le nuvole in corsa. «Eccolo», disse a Stephanie Potter e la prese sotto braccio. Si raggiungeva la spiaggia attraverso un gigantesco arco di pietra sotto il lungomare, un tunnel cavernoso dove il vento si infrangeva e moriva. La sabbia s'ammucchiava in cumuli aridi, si ammassava contro le pareti. Daniel si era tuffato ogni giorno nella sua ombra fredda, liberandosi dei sandali di gomma, un ragazzino grasso che contrae dita grasse nella sabbia finissima, dapprima fredda e poi più calda, sbucando infine sulla riva assolata. Quando sbucarono dal tunnel sulla spiaggia, il vento di mare li colpì come un muro di tela bagnata, una sberla assordante e pungente in pieno viso. «Oh!» esclamò Stephanie aprendo la bocca e ingoiando l'aria fredda e salata. Barcollò e rise. «Oh, Daniel!» Daniel si interpose tra lei e il vento che spirava dal mare. La sabbia asciutta si sollevava, serpeggiava e mulinava, si innalzava come un'onda e si frangeva esanime ai piedi del muro. Daniel rideva beato. 6 miglia di sabbia», disse aprendo le braccia robuste per contenerne l'ampiezza. Si chiuse il cappotto intorno al collo e tirò il cappuccio nero sui capelli ispidi. Il vento gli mulinava intorno alla testa e piccole colonne di sabbia gli sferzavano il fondo dei pantaloni. Qui poteva allargare le braccia come uno spaventapasseri ed essere quasi sollevato dal vento, goffo e felicemente senza peso. Piegò il braccio e lo offrì a Stephanie. «Camminiamo fino a lì», le disse indicando il punto in cui la scogliera sprofondava nel mare. «Il vento non la disturba?» Non era una domanda. Labbra e guance le bruciavano. Gli occhi erano velati di aria fredda e di lacrime. Nascose la testa dietro le spalle di Daniel con un ambiguo cenno di assenso. In questo modo, dopo un po', giunsero al fondo della banchina frangiflutti. Appollaiato sulla scogliera, puntellato da travi, c'era il Marine Café. Daniel lo indicò con un ampio gesto del braccio libero. Se fosse aperto, tuonò, potremmo prendere una tazza di caffè e un dolce e rinvigorirci per il prossimo tratto. Il Marine Café era una costruzione vagamente a forma di barca, con teli metallici alle finestre e tavolini di giunco con piani di vetro verde ghiaccio. Le finestre della sala lumosa erano imbrattate opache per via degli spruzzi di sale. I piani dei tavoli erano imbrattati opachi per via dei frettolosi colpi di spugna. Sembrava di stare in un acquario, in un elemento più denso. Quando arrivò il caffè, era bollente e non cattivo. Daniel avrebbe voluto fare un complimento per i suoi occhi luminosi e le guance rose, ma non osò. Disse invece, «Venivo spesso qui con mio padre e mia madre. Loro prendevano un tè e io un gelato in una coppa d'argento. Beh, credo che non fosse d'argento, ma io dicevo così. Vita familiare», continuò. «Vita familiare, strana idea. Quando venivamo in questo posto, noi tre, era per stare insieme. Venivamo qui per quello. E nessuno di noi sapeva cosa dire. Qualche volta mio padre faceva il buffone, non riusciva a stare fermo. Non ci riusciva proprio. Doveva sempre fare qualcosa. A volte penso che le vacanze lo facessero impazzire. Mia madre si sedeva in una sedia a sdraio e io non gli ero di grande aiuto. Troppo grasso e lento. Non riuscivo ad arrampicarmi e correre. Non ho mai imparato a nuotare. Ora è lei che non riesce a star fermo. No, disse Daniel, non ci riesco. Ma questo è venuto dopo che è morto. Non sapevo che fosse morto. Daniel parlava come se avesse dovuto saperlo. Fece lo sforzo di dirle quello che, visto il posto che lei occupava nei suoi pensieri, era più facile e più piacevole supporre che sapesse già. Morì prima che compissi 11 anni. Mi spiace, e com'è morto? Un vagone di minerale di ferro. Si è sganciato e lo ha schiacciato. Prese a rimuginare tutto a un tratto lontano da lei. Rivide suo padre, enorme, bianco, gocciolante d'acqua nella tenda da spiaggia odorosa di mare, odorosa di tela, con una luce verde mentre si asciugava le spalle il torace e i capelli folti come i suoi. Pensò a quella mole schiacciata e spezzata e disse a Stephanie: «Non soffrì. Non ricordo di aver sofferto. Avrei dovuto soffrire di più». Lei allungò una mano verso di lui. Lui non la prese. «Sono sicura che ha sofferto, Daniel. Forse era troppo doloroso da ricordare dopo. Era un bravo uomo. Un uomo grosso, gentile e ordinario. Era esigente, sempre addosso a te, cioè a me, perché fossi il migliore, perché facessi le cose per bene. Non gli ero riconoscente. Gli sono riconoscente adesso. Ce l'avevo con lui, credo. Non lo so. Gli volevo bene». Come poteva farle immaginare quell'uomo morto? E perché avrebbe dovuto? Voleva renderla partecipe del suo passato, ma era impossibile. Quanto a Stephanie, sapeva cosa voleva da lei, eppure era seccato. Ironia vuole che spesso coloro che vogliamo rendere partecipi del nostro passato si sentano minacciati o isolati o sminuiti da quel passato. Ironia supplementare, nel loro caso, volle che Stephanie sviluppasse una certa aggressività. Il fantasma di quel macchinista non era là, dopo tutto. Ma lei sì, lei c'era. Daniel avrebbe dovuto vedere quello che c'era. Stephanie lo tirò per la manica. «Su, andiamo, sta per piovere. C'è tanto di quel vento da contentare persino lei». Daniel la guardò, alzò le spalle e fece un passo. Lei disse qualcosa che non riuscì a sentire. «Cosa?» gridò nel vento. Lei parlò di nuovo e di nuovo lui non riuscì a sentirla. L'aria afferrava le parole di Stephanie, rimescolandole nel proprio fragore. La tirò più vicino a sé e affrontarono l'ultimo segmento di sabbia. Stephanie, con i polmoni palpitanti e dilatati, cercava di prendere fiato, stupita che la fredda aria salina potesse scottare tanto. Difficile rendersi conto di quale distanza avessero percorso o dovessero ancora percorrere. La vastità luminosa della sabbia dava l'impressione di affaticarsi senza avanzare, di correre restando fermi. Quando finalmente riprese fiato, Stephanie tirò un respiro profondo e le folate di vento quasi li sospinsero fino alla punta della scogliera. Si arrampicarono scivolando e finalmente raggiunsero la strada che l'uomo ha costruito lungo un tratto del crinale, puntellando, consolidando con asfalto e cemento, interstizi e crepe, materiale franoso, scivoloso e sassoso. Ci arrivarono salendo a quattro zampe e si fermarono sotto la lapide commemorativa di una famiglia spazzata via da un'onda gigantesca, un destino inciso su quella pietra a monito per gli altri uomini. L'odore di sale era adesso un odore organico, di mare e di iodio, energico ed estraneo. Daniel lo respirò con gusto. Disse: «Le va di proseguire? Andiamo fino in fondo o facciamo un giro alle grotte?» «Fino in fondo», rispose Stephanie puntando in quella direzione. «Bene». Era impaziente di andare. «Per un buon tratto possiamo proseguire senza pericolo e bassa marea. Lo sa che questo posto stava di essere stato costruito dal nemico del genere umano per attirare le navi e farle naufragare? Non stento a crederlo. O forse era il primo pilastro di un ponte sul mare del nord, ma lui si spazientì e il pilastro crollò, e a noi resta questa rovina incompiuta». Appena fuori dal riparo del promontorio, il vento soffiava in modo diverso, meno monotono, meno violento, stridulo piuttosto, sibilante, frusciante, ululante. Giunsero a una sommità piatta e si guardarono intorno. Sotto di loro le onde si frangevano contro lo sperone roccioso sommerso, si gettavano a capofitto e si frantumavano rotolando, cozzando, spruzzando. Rimasero sulle rocce bagnate, travolti e stupiti dallo spettacolo. Il berretto di Stephanie era zuppo. Daniel scrollò il testone nero come un cane, producendo uno zampillio scintillante nel fascio di sole freddo e chiarissimo che all'improvviso parve fissarsi su di loro. Guardò Stephanie, che se ne stava lì in silenzio. Se ne stava lì tranquilla, scrutando l'ultima onda che, prima di ritirarsi, si soffermò sopra e intorno alle sue scarpe. Lentamente si tolse il berretto. Il vento le scompigliò i capelli biondi, rigati da tracce scure d'acqua. L'impermeabile era disseminato di chiazze scure. Il sole adesso era così luminoso che Daniel riusciva a stento a distinguerla. Stephanie ripeté qualcosa e lui di nuovo non riuscì a sentirla. «Come?» gridò. «Che cosa ha detto?» Lei gli avvicinò la bocca all'orecchio e allora finalmente riuscì a sentirla. «Userò il suo linguaggio allora. Ho detto: e luce sia!» Sembrava ebbra, eccitata. «Andiamo», disse, e si avviò lungo gli scogli, molto veloce, a braccia aperte per mantenersi in equilibrio, metà correndo, metà a grandi passi. Daniel la seguì. Lei girò verso di lui un viso che non aveva mai visto. Un viso che sorrideva ciecamente, smarrito, bianco e umido. Daniel la tirò a sé, tra le acque impetuose, e le strinse i capelli e il corpo. La baciò. Fu un misto di sale, di freddo, di caldo, di sbilanciamento. Lo baciò anche lei. Lo baciò con tale convinzione che barcollarono. «Non la lascerò annegare», disse Daniel trascinandola via. Al riparo di due scogli, la cinse più comodamente e la baciò di nuovo. Stephanie aveva un'aria di abbandono quasi lascivo. Daniel era in uno stato estremo. La spinse accidentalmente contro la roccia, poi lo avvicinò alla solidità del proprio corpo. Il sole freddo continuava a brillare. «Le toccherà di sposarmi?» «No, è un momento romantico che abbiamo creato noi, non cambia niente». «Sì che cambia. L'abbiamo creato noi, possiamo crearne molti altri, possiamo fare qualunque cosa». «È stato lei a crearlo», gemette Stephanie. «Io voglio vivere così». «Non si può, io lo so. Queste cose non durano». «Le cose che faccio io durano». Le gote di Stephanie si rigarono di lacrime, calde, sul mare freddo, sulla pelle fredda. Lei lo sapeva. Sapeva che cose simili svaniscono nel momento stesso in cui si cerca di riconoscere. «Ha mai provato niente di simile?» chiese Daniel come se la domanda fosse decisiva. «No, ma...» «Neanch'io». «Daniel, questo non significa praticamente niente. Vale soltanto qui e ora». «Non è vero. Non chiedo molto. Chiedo solo di continuare a vivere così. Io ti voglio. Voglio che tu sia mia». «Oh, Daniel...» «E lo vuoi anche tu». In realtà non era sicuro, ma lei rispose: «Va bene». Restarono tutti e due interdetti. Stephanie lo ripeté quasi irritata. «Va bene. Ho detto va bene». Il viso di Stephanie era inondato di lacrime. Daniel ritrasse un braccio. «No, non voglio forzarti. Non sei tenuta». «Ma perché non capisci? Pensavo che capissi. Il fatto è che non ho mai voluto niente. Niente per me stessa, in tutta la mia vita. Non so come conciliarlo con tutto il resto. Non so come affrontare... Se in quel momento le certezze di Daniel fossero vacillate, si sarebbero persi tutti e due. Ma lui disse... Allora è tutto a posto. Questo è ciò che conta. Andrà tutto bene. Oltre la testa pallida di Stephanie, Daniel vedeva il mare e il cielo, immobili e impetuosi, agitati e luccicanti. Molto più tardi, mangiarono panini e bevvero birra in un pub. Seduti fianco a fianco su una cassapanca di legno accanto a un camino acceso, divorarono manzo rosso al sangue, cipolle e sale tra fette di pane scuro e fresco. Non riuscivano a mangiare abbastanza in fretta. Il sapore era intenso e forte e decisamente gradevole. Non erano abituati alla felicità. Entrambi inconsciamente si preparavano al momento in cui la felicità si sarebbe incrinata. «Cosa succede dopo?» domandò Daniel scolando la sua pinta. «Dopo?» «Dopo oggi, fra una settimana, fra un mese. Cosa facciamo adesso?» «Cosa possiamo fare?» «Sposarci. Presto. Qualunque altra cosa non avrebbe senso.» «Quanto presto?» «Beh, ci sono degli ostacoli. Un posto in cui vivere. Non è facile, non guadagno quasi niente. A te non andrebbe di vivere con il vicario, e neanche a me.» Una dice «va bene» e all'improvviso tutto diventa irriconoscibile. Stephanie non riusciva a immaginare di vivere con Daniel, né, dovette ammettere, senza di lui. «Devo finire il trimestre, devo dirlo a papà. Non credo che la cosa gli piacerà.» «Adesso o mai?» «Probabilmente mai. Ma forse è stato per avere qualsiasi idea.» «Sarai una brava moglie per me. Hai bisogno di agire. E anch'io. Noi due ci assomigliamo. Andremo d'accordo. Non sono esattamente un fanatico di incenso e campane, non credi?» Le mise una mano in grembo, sopra la sua. Il desiderio li assalì. Voglio... disse Daniel come se stesse conversando, ma a denti stretti. «Anch'io», disse lei, sincera. «Non abbiamo un posto in cui andare.» «No, potremmo restare qui. Potremmo prendere una stanza e inventarci una storia. Telefonare e raccontare delle bugie. Lo fanno tutti, in continuazione. Dovrebbe essere facile.» Il viso di Daniel assunse la consueta espressione cupa, pensierosa. «Per te sarebbe facile?» «No, sono una pessima bugiarda. Starei in ansia.» «Già.» Le strinse la mano fino all'osso. «Deve esserci un modo, per forza. La gente riesce sempre a trovare un modo.» «Meno di quanti tu creda.» Daniel scoppiò improvvisamente a ridere. «Nella mia professione si finisce per sapere quanti sono, o meglio, quanti uomini. E mi sembrano davvero tanti. C'è un numero incredibile di uomini che si trovano perennemente in situazioni in cui è decisamente difficile non... Forse sono semplicemente inesperto, o non mi impegno abbastanza. Cosa facciamo?» «Non lo so.» Camminarono ancora a lungo, in realtà, e tornarono a Blessford con autobus e treni senza aver risolto nulla. Alla stazione degli autobus di Blessford, Daniel disse: «Il meglio che posso offrirti è un caffè in polvere nella mia stanza.» «Beh, io non posso offrirti niente.» Il vicariato era buio e deserto. «Sono fuori.» «Così sembra.» Al buio salirono nella stanza di Daniel, si chiusero dentro, restarono in ascolto. Lei disse: «Dov'è Felicity?» «Non lo so.» «Perché non tiri le tende?» Lui le tirò e accese la stufa e la lampada rossastra sul comodino. Si girò a guardarla. «Mio Dio!» «E adesso?» Lei non rispose. Erano entrambi spaventati all'idea di mettersi a letto. Stephanie si rigirava nervosamente tra le mani il berretto, come un morbido scudo di castità. «Togliti almeno il cappotto», le disse Daniel. Stephanie lo depose con esagerata lentezza e precisione su una delle tante sedie. Quella inutile meticolosità lo irritò. Con un solo passo scricchiolante la raggiunse e le mise le braccia intorno alla vita. Lei si ritrasse. «Cosa ti succede?» «Non sono sicura che non ti sentirai in colpa a causa mia.» «No, non a causa tua.» «Questo non ha importanza», disse. La casa era immersa nel silenzio. Daniel cominciò a disfare il letto. Lei non cercò di fermarlo. Quando lui ebbe finito, disse: «Hai un asciugamano?» «Un asciugamano?» «Ci servirà un asciugamano?» Ne trovò uno, a righe bianche e rosse, e lo posò sul cuscino. Daniel si chiese se doveva cominciare a spogliare lei o se stesso. Stephanie disse: «Se spegniamo la luce e non facciamo rumore, se rientrano non si accorgeranno che siamo qui». «Giusto», disse Daniel. Così si svestirono al buio, in fretta, e si infilarono a letto. Carne fredda, carne ardente, pallida e scura, scomodi nel letto troppo stretto. Non fu un grande successo, ma una frenesia priva di coordinamento e ritmo, con i due corpi costantemente a rischio di cadere dal letto, dal cigolio delle molle e da coperte lenzuola che scivolavano giù. Daniel, sovreccitato e frenetico, per la metà del tempo non seppe se era dentro o fuori, se entrava o usciva. Stephanie, non usa al piacere sessuale acuto, non fece nessun tentativo di esigere un orgasmo e non lo raggiunse, cosa di cui Daniel parve non accorgersi nel suo analfabetismo sessuale. E infatti neppure cercò di provocargliene uno o di chiederle se c'era stato o di scusarsi dell'evidente carenza. Stephanie pensò che era meglio così, per evitare imbarazzi. Si fecero bollenti e sudati, un po' illividiti e confusi. Un grugnito di Daniel mise fine alla cosa. «Bene», disse. «È stato comunque un inizio. Questo è l'essenziale. È stato un inizio». Stephanie abbassò lo sguardo. «Mi piace vederti qui», continuò Daniel. «Sembra la cosa giusta». Sollevò un braccio massiccio e attirò sul petto la testa bionda. Lei si distese accanto a lui, abituandosi gradualmente a quei contorni pronunciati, agli spessi rotoli di carne. Le teneva una mano enorme sulle reni e l'altra tra i capelli. Stephanie sentiva che i limiti dei loro corpi erano infiniti. Udiva i battiti forti di quest'altro cuore. «Stai bene?» «Magnificamente». «Te le immagini due che si sposano senza volerlo realmente? A quanto pare lo fanno in molti. Non ha senso se non si è realmente convinti. Forse non vogliono stare soli». «Io no». Le certezze di Daniel l'allarmavano e nello stesso tempo la affascinavano. Allora si addormentò con un sospiro. Anna Bonaiuto ha letto La Vergine nel Giardino di Antonia Bayat, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.